Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. È scomparso dai radar dei media per mesi, dopo un cancan durato giorni e giorni. Ricompare oggi e sono pronto a giurarci, tornerà con fragore il prossimo anno. Di chi parlo? Ma di Angelo Vassallo, sindaco campano di Pollica, nel Cilento, trucidato con precisione militaresca da 9 colpi di proiettile nella tarda serata del 5 settembre 2010. Un omicidio di mafia, statene certi, non si massacra un sindaco in quel modo senza chiedere quantomeno l'autorizzazione a chi sul territorio assume quel governo criminale che corre parallelo a quello legale dello Stato. E Vassallo, di uova nel paniere, alla malavita ne aveva rotta a sufficienza, come ricorda oggi Stefano Pisani, braccio destro di Vassallo, che da qualche mese ha raccolto il testimone alla guida del municipio di Pollica. Con lo stesso polso fermo e la stessa volontà di lasciare quest'angolo di Cilento immune da speculazioni edilizie e infiltrazioni camorriste o ndranghetiste. E già, perché non dimentichiamo che la Caserta dei Castellesi è a un passo, ma anche la Calabria è vicina e fa correre le cosche sull'asse dell'autostrada Salerno-Reggio. La vita però è strana, perché la mano mafiosa che ha armato quella del killer ha raggiunto esattamente l'effetto contrario a quello voluto. La morte di Vassallo ha aumentato la responsabilità di amministratori e cittadini cilentani, che oggi restano sbigottiti di fronte al fatto che un anno di indagini non abbiano ancora portato a nulla. Più o meno si brancola nel buio, ipotesi tante, risultati zero. E allora forse vale la pena sperare che il nome e la figura di Angelo Vassallo ricompaiano sui radar dell'informazione ben prima del 5 settembre 2012. Vorrebbe non solo significare che esecutori e mandanti sono stati individuati, ma anche e soprattutto che quelle speranze di cambiamento nella lotta alla mafia hanno un motivo fondato per restare accese nel cuore dei cilentani e di tutti gli italiani che hanno a cuore legalità e diritti. Buona giornata e a domani. Le 6, 14 minuti e 10 secondi, dunque iniziamo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola, iniziando dal Sole 24 Ore. È il Sole 24 Ore del lunedì, dedica molto naturalmente alla manovra e alla crisi. Il titolo principale è: fisco, rischio penale senza rete, il reato non colpisce, scrive il Sole 24 Ore, solo le violazioni sostanziali, ma anche l'abuso del diritto e l'elusione. Poi ci sono una serie di dettagli proprio e di approfondimenti all'interno su questo tema, e un commento di Fabrizio Forché dedicato al decreto e alle coperture, un azzardo a caro prezzo è il titolo. Di taglio centrale troviamo il tema della crisi e del dollaro, le paure delle piccole e medie imprese, timori per il cosiddetto double dip, ossia per una doppia recessione, per una nuova recessione. Il cambio, si legge, può penalizzare l'export negli Stati Uniti. E poi la bussola della congiuntura, firmata dall'ottimo Fabrizio Galimberti, il soccorso degli emergenti è il titolo. Infine, anche sulla borsa, borse sotto pressione tra titoli di Stato e prodotto interno lordo. Questo per quanto riguarda il Sole 24 Ore. L'apertura del Corriere della Sera è dedicata invece alle novità della manovra. Fisco e licenziamenti, la nuova manovra è il titolo, linea più morbida, redditi online senza nomi, niente conti correnti nelle dichiarazioni, passa la deroga all'articolo 18, cade la tutela del posto di lavoro se c'è il sì dei sindacati. C'è un titolo che riguarda del Presidente del Consiglio, un pezzo a firma di Paola Di Caro, che dice: Berlusconi, due punti, ho tolto le norme discutibili. E a proposito del Presidente del Consiglio, l'inchiesta di Napoli, illegali pagamenti in contanti a Tarantini, è un pezzo di Fiorenza Sarzanini di taglio centrale. Il giudice di Napoli e i soldi versati dal Premier, di questo si parla, di violazione della normativa antiriciclaggio. Si parla anche di Libia, dell'assalto al feudo di Gheddafi. E poi di taglio basso, il progetto per la maturità, un test per uniformare i giudizi delle scuole, addio al quizzone, questo è il titolo. Per quanto riguarda la stampa, anche qua apertura sulla manovra, si può licenziare se c'è il sì dei sindacati. E poi presenta a centropagina un'intervista ad Alex Del Piero, che presenta il nuovo nuovo stadio della Juve. Ecco la nuova casa della Juve, questo è il titolo. Intervista al capitano: sarà lo stadio nostro e di nessun altro, e ci darà una nuova energia. Vi segnaliamo anche la vicenda della Padania, che ora lancia il suo giro, scatta nel Cuneese la contestata corsa a tappe voluta da Bossi. E poi una decisione shock in Scozia: i bambini obesi vanno tolti ai genitori. Questo sulla Stampa. La Repubblica: manovra più facile licenziare, anche qua l'apertura è questa. E però c'è l'atlante politico di Ilvo Diamanti, ben in evidenza: Berlusconi e Bossi, crolla il consenso. Questo si legge: tiene Bersani ma paga gli scandali. Anche qua a centropagina il titolo è dedicato alla vicenda Tarantini, sia alla vicenda Tarantini che alle vicende del Partito Democratico. Tarantini caccia i soldi, il PD sospende Penati. Dal Premier si legge su Repubblica molti altri versamenti. Il Cavaliere cerca di rinviare l'interrogatorio. Tra l'altro, invece, sul caso Penati vi segnalo che più tardi alle 6.30, subito dopo il GR delle 6.30, con Italia in controluce, ci sarà un viaggio tra i militanti del Partito Democratico proprio sulla vicenda Penati. Poi, sempre in tema di politica, il lutto, addio a Martinazzoli, il segretario tormentato della DC, così titola la Repubblica. I pezzi sono a firma di Ceccarelli e Pons, morto a Brescia, aveva 79 anni, e Bazzoli che dice politico elegante e nobile. Interessante anche il pezzo su Cuba, l'ultimo mistero di Fidel e i fantasmi di Cuba. Veniamo al Messaggero. Lavoro e fisco si cambia, il titolo principale, l'appello degli industriali che incalzano il governo e dicono agire subito. E poi l'unico dei principali quotidiani che dedica spazio in prima pagina a questa sconfitta per la Merkel, che pesa il fattore Europa, questo si legge: c'è stata una pesante sconfitta elettorale per Angela Merkel nel Mecklenburgo. E poi dal quotidiano romano Il Messaggero: Piazza Navona un raid premeditato, si legge, questo quel che emerge dalle indagini. Anche qua la vicenda dei soldi a Tarantini e il Premier che avrebbe violato le norme antiriciclaggio. E poi un'intervista all'ex CT della Nazionale Azzurra di Calcio che parla di Totti: parlate chiaro a Totti, è un uomo leale, altro che mangia allenatori, dice Lippi. Anche di questo parleremo più avanti, così come dello sciopero dei calciatori. Allora, vi riferisco anche qualcosa dai siti dei quotidiani esteri. Vi segnalo che il Wall Street Journal Europe, e questo anche nella versione cartacea, apre esattamente sulle pressioni arrivate al governo italiano perché approvi al più presto le misure sul debito, riferendo tra l'altro non solo del record dello spread di venerdì, ma anche il fatto che i credit default swaps, che sono questa sorta di assicurazioni sul debito di un paese il cui prezzo sale quando sale il rischio, sono tornati a crescere. Il New York Times Online ha una bellissima storia, oddio, più che bella, sicuramente significativa, e che dà un chiaro segnale di quello che sta succedendo. Il glorioso servizio postale degli Stati Uniti è sull'orlo del fallimento. In questo mese aveva da effettuare pagamenti per 5 miliardi e mezzo di dollari e non potrà farli. Ha un deficit da oltre 9 miliardi di dollari. Il Congresso dovrà intervenire entro l'inverno per evitare il default. Il Financial Times invece, in tutto questo bailame economico, sceglie per la sua apertura online una vicenda che rischia di scatenare potenti polemiche in Inghilterra e che riguarda invece le questioni libiche, ossia che nella strategia della lotta al terrorismo i servizi britannici aiutarono quelli di Gheddafi a prendere un sospetto terrorista ad Hong Kong e portarlo a Tripoli, dove poi fu torturato. Il punto è che costui è ora il capo delle milizie dei ribelli proprio a Tripoli, quindi c'è il sospetto che Gheddafi alla fine gli abbia venduto un oppositore. Vi consigliamo infine di visitare il sito della versione tedesca del Financial Times, il Financial Times Deutschland, anche se non parlate tedesco, perché subito in apertura c'è una grafica che illustra in maniera plastica, così potremmo dire, la sconfitta di Angela Merkel, la sconfitta elettorale di Angela Merkel. Ora cambiamo argomento, rimaniamo in realtà anche un po' su questi temi, parliamo di economia internazionale e non solo. A Cernobbio abbiamo incontrato al workshop Ambrosetti il presidente dell'Enel, Paolo Andrea Colombo. Abbiamo parlato con lui di situazione economica, di manovra, di Robin Tax e anche di nucleare. Prima di dire che entriamo in una nuova fase recessiva, aspetterei. Certamente è una fase, come dicevo prima, complessa e che suscita grandi preoccupazioni. È una fase che secondo me deve indurre tutti, e qui mi riferisco in particolare al nostro paese, ma non solo al nostro paese, perché non dimentichiamo che questa è una crisi generalizzata che riguarda gli Stati Uniti, riguarda parecchi, numerosi paesi dell'Unione Europea, quindi è una crisi veramente globale. E qui bisogna che si faccia tesoro di questa situazione per coglierne l'opportunità, mettendo mano a quelle che sono le vere riforme strutturali, gli veri interventi di risanamento strutturale che possano consentire di gestire la politica di bilancio e di ridurre il livello del deficit e del debito attraverso misure che consentano di poi rilanciare l'economia. Una cosa è certa, oggi siamo in una fase che è critica proprio perché ci si trova in presenza di una combinazione di fattori che sono micidiali: deficit pubblici elevati, debiti pubblici elevati, spesso in taluni paesi, per fortuna non l'Italia, un elevato debito anche del settore privato, in particolare delle famiglie, e dall'altro abbiamo una fase di crescita che non c'è, una crescita inadeguata che non è in condizione di rilanciare l'occupazione e di rendere sostenibili quei debiti. E quindi in questo contesto bisogna, con grande coraggio e senza calcoli opportunistici anche da parte della classe politica, e con un'ottica di lungo termine, bisogna mettere mano alle riforme strutturali del sistema economico occidentale. A proposito di segnali preoccupanti o meno, quali sono quelli che state ricevendo voi come azienda e come settore dal lato dei consumi energetici? I consumi energetici, quantomeno in Italia, non stanno dando particolari segnali negativi, anzi ho visto l'ultimo dato, sia pur non destagionalizzato, e addirittura ha un segno più davanti, quindi dal punto di vista dell'energia non abbiamo ancora avuto dei segnali che possano suscitare preoccupazioni, dal punto di vista dei consumi elettrici mi riferisco. La questione manovra e in particolare naturalmente la Robin Tax, come potrà intuire la preoccupazione è alta, soprattutto tra i consumatori, sulla ricaduta della Robin Tax sui consumatori finali. Da questo punto di vista il vostro giudizio? Certo, quello che si può osservare vedendo quello che si è letto sino ad oggi è che comporta un ulteriore inasprimento dell'imposizione per il settore della produzione di energia elettrica con un'aliquota che passa dal 6,5 al 10,5 e l'estensione dell'applicazione dell'addizionale anche ai settori regolati della distribuzione. Questo determina ovviamente un inasprimento fiscale sugli utili prodotti in Italia, questo lo sottolineo, questi sono utili e risultati economici prodotti in Italia che sono a disposizione del Paese per gli investimenti nelle infrastrutture energetiche di cui il Paese ha bisogno. È chiaro che un abbattimento di questi risultati economici distoglie una parte di queste disponibilità da quelli che saranno gli investimenti, che erano gli investimenti programmati, quindi ci auguriamo che anche questa considerazione sia tenuta nel debito conto. Un'ultima cosa che le voglio chiedere riguarda un tema che è rimasto un po' sotto traccia, no? Nell'ultimo periodo, dopo passata la buriana della vicenda Fukushima, la questione del nucleare. Mi sembra che cioè lo abbiamo evidente, anche forse per calcoli elettorali interni si sta andando in ordine sparso, cioè la Merkel ha detto che chiude tutto entro il 2020, la Svizzera più o meno ci siamo, i francesi vanno avanti, gli americani vanno avanti, i cinesi vanno avanti. Noi naturalmente stiamo fermi e dobbiamo star fermi. Che prospettive vede da questo? Importiamo il 14% della nostra energia da paesi che la producono anche con centrali nucleari, quindi al danno si aggiunge anche la beffa. Sotto questo profilo ovviamente noi non possiamo che rispettare quelle che sono state le decisioni del popolo sovrano attraverso lo strumento del referendum. Certo che il fatto che venga meno l'energia nucleare, la possibilità di ricorrere all'energia nucleare, rende più difficile il raggiungimento di quelli che erano gli obiettivi, a mio avviso, prioritari per il Paese, quello cioè di raggiungere un mix equilibrato di fonti energetiche, quello di diversificare le fonti di approvvigionamento riducendo la dipendenza dall'estero, in particolare dalle importazioni di gas che sono effettuate da Russia, Algeria e Libia, e anche quel terzo obiettivo, quello di avere una mix energetico che sia dal punto di vista ambientale più sostenibile. E questo era Paolo Andrea Colombo, presidente dell'Enel. Le 6:33 minuti e 36 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezzi. Adesso è il momento di Italia in controluce, come dicevamo ci si occupa delle vicende del Partito Democratico e di Penati in particolare. Italia in controluce. Oggi è il 5 settembre, buona mattina da Daniele Biacchiesi, Italia in controluce, il programma di Radio 24 sulla cronaca, sulla politica, sul costume italiano. Una botta del caso di Filippo Penati coinvolto nell'inchiesta sulle tangenti a Sesto San Giovanni. Parla così a Radio 24 uno dei militanti del Partito Democratico che lavora in queste ore alla festa di Milano in corso al Palasharp. Uno di quelli, tanto per capirci, che ogni anno prende 20 giorni di ferie e si mette a disposizione del partito tra ristoranti e iniziative politiche. Le testimonianze sono state raccolte ieri da Fabrizio Maesano. È una botta, diciamo che è uno dei casi più eclatanti successi negli ultimi 20 anni nel nostro partito, da prima di SPD, PC, dopo Tangentopoli e tutto, è una cosa grossa. Fino all'altro ieri io su Penati avrei messo la mano sul fuoco, per esempio. Oggi purtroppo ho dei dubbi. Un grande compagno, un grande artista nel lavoro, e poi dopo essere condannato così si vede che avrà fatto qualcosa innocentemente. Non ho ancora parlato assieme, io lo conosco da 30 anni, però praticamente come si fa a sapere com'è la faccenda, perché poi uno dice una cosa, uno dice un'altra. Il microfono passa ora dai militanti del PD milanese a quelli dei tanti circoli del PD sparsi per l'Italia. Le testimonianze raccolte da Barbara D'Amico. Ci sono rimasto male. Sono rimasto male, sono deluso, però confido che non siano tutti Penati. Bisogna vedere se, però da quello che emerge, diciamo che io voglio un partito pulito. Se alla fine viene accertato che lui è un colpevole, questa gente è bene che non faccia neanche parte del nostro partito. Credo che sia necessario che Penati faccia un passo indietro da tutto. Al di là delle commissioni di garanzia che il partito già sta mettendo in moto, credo che però il giudizio politico che se ne ricava è un giudizio politico oggettivamente negativo. Il PD non è nato con questi presupposti, né è questi presupposti. Credo che prima di tutto serve accertarsi sulla verità dei fatti. Sì, i militanti possono arrabbiarsi di fronte a questo, ma non è intoccabile la nostra differenza rispetto agli altri, insomma, questo non cambia niente. Chiaramente la ferita è grande, ma non significa però perdere la fiducia, perché credo che i valori che sono alla base della costruzione del Partito Democratico siano valori importanti, ci siano radici profonde. Italia in controluce, la prima edizione, torniamo oggi alle 13:30 con Italia in controluce in versione lunga con i reportage e l'inchiesta. Le 6:36 minuti e 57 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Abbiamo sentito quello che è il quadro dal Partito Democratico, ma veniamo alla maggioranza e soprattutto alle tensioni che sta generando e che probabilmente genererà nelle prossime ore, perché il passaggio in commissione al Senato c'è stato, ma poi c'è l'Aula e poi c'è anche la Camera. In diretta con Angelo Perrino, direttore di Affari Italiani. Buongiorno Angelo. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, io partirei esattamente da questo. Che idea ti sei fatto? Insomma, sono arrivate di nuovo delle modifiche all'ultimo minuto. Questa manovra reggerà così secondo te, o anche alla Camera ci saranno cambiamenti e quindi saremo costretti ad un nuovo passaggio? Ma rimane quel concetto di manovra Wikipedia, cioè si aggiungono delle cose giorno dopo giorno, è una manovra in progress, siamo a un'innovazione assolutamente inedita, quindi certamente ci saranno dei cambiamenti strada facendo, abbiamo visto che la manovra risente della struttura lobbistica di questo paese, molto corporativo, e risente del fatto che i politici fanno le manovre in relazione ai loro interessi politici. Quindi dobbiamo prepararci ancora a cambiamenti, sperando che questo non determini sui mercati un'esposizione ad attacchi violentissimi come già accadde all'inizio di agosto. E sicuramente la giornata di oggi sarà una di quelle decisive, anche se la Banca Centrale Europea sta continuando a comprare i nostri titoli di Stato. Ieri poi il segnale di preoccupazione che è arrivato anche dagli industriali, da Cernobbio, che dicono insomma il paese è in crisi di credibilità. Proprio dal lato della credibilità di questo esecutivo, secondo te la manovra sta creando ulteriori e particolari danni? Ma io direi nelle singole operazioni, nelle singole riforme assistiamo a questa specie di souk, queste trattative infinite con cambiamenti quotidiani. Sullo sfondo peraltro vedo che il metodo napolitano, diciamo, sta producendo effetti, cioè alla fine di riffa o di raffa, come potremmo dire, si sta arrivando all'obiettivo. È innegabile che ieri per tempo la commissione deputata del Senato ha licenziato il testo entro tempi che per l'Italia sono dei tempi record. Quindi, come si è detto, in questo paese dove la situazione è grave ma non seria, pur nel dramma che stiamo vivendo, perché è un dramma, come è stato detto ieri a Cernobbio da Zadra, c'è questo rischio default che ci terrorizza, che è reale, tuttavia la politica, con una specie di riflesso condizionato, riesce a portare avanti comunque questo provvedimento, e forse ha ragione Corrado Passera, che stamattina dice chiudiamo questa manovra e poi ci mettiamo al lavoro per un patto per la crescita, quindi va chiusa e poi riaperta. Ultima domanda è quella che riguarda il ruolo di Giulio Tremonti in tutto questo. Ieri appunto dalla sala di Cernobbio un applauso della platea tutto sommato poco convinto e più forte, come dicevi, per l'intervento di Giuseppe Zadra, che ha detto: molti di noi qui in sala seguono i lavori del seminario con l'angoscia di un prossimo default dell'Italia. Che tipo di segnale è questo? Si capisce che il ministro Tremonti ha perso molta della sua credibilità, sia per le vicende private, il caso milanese, cioè il suo braccio destro impelagato in prassi assolutamente discutibili, inaccettabili, di cui si è chiesto l'arresto da parte dei magistrati di Napoli, decisione che dovrà passare per il Parlamento tra qualche giorno, e opportunamente rinviata a settembre, se no avremmo perso il ministro nel pieno della crisi, e poi per i suoi stessi, le sue incertezze, cioè abbiamo detto che l'Italia era il paese meglio attrezzato, che era il paese che aveva superato meglio la crisi. In realtà Tremonti, quando diceva questo, mostrava o di non conoscere bene i dati o di sottovalutarli colpevolmente, intenzionalmente, come ha detto Napolitano. Quindi il ministro Tremonti, lo segnalano anche i sondaggi di questi giorni, è in caduta verticale di consensi e di popolarità ed è esposto a questo rischio milanese, perché si dice che il suo braccio destro si è molto arrabbiato con lui e abbia voglia di raccontare delle cose poco positive, insomma, ecco. Grazie. Molti dettagli, informazioni e quant'altro li trovate anche sul sito diretto da Angelo Perrino, affariitaliani.it. Buona giornata, Perrino. Grazie, grazie a voi, aspettiamo i mercati e speriamo che non ci sia anche oggi un lunedì nero. Grazie dunque, buongiorno, e noi passiamo adesso a parlare di calcio. Dario Ceccarelli, buongiorno. Sì, buongiorno a te Simone, buongiorno agli ascoltatori. Ne parliamo per una serie di motivi, innanzitutto perché oggi alle 11 si vota questo benedetto accordo sul contratto dei calciatori che tanto ci ha fatto penare, si parte da questa seconda giornata. Sì, si parte da questa seconda giornata, diciamo che è arrivato questo grande giorno, cosiddetto happy end, perché all'ora di pranzo, appunto, come dicevi tu, associazioni, calciatori e società firmeranno il nuovo contratto collettivo valido fino al 30 giugno 2012. In sostanza però non è neanche un grande accordo, è un accordo ponte, no? Quel famoso accordo ponte che era stato proposto da Damiano Tommasi per rinviare in extremis lo sciopero dei calciatori, sciopero che ha fatto discutere mezza Italia, perché diciamo non era un momento per fare sciopero. Adesso interpretiamo il senso popolare della gente. Anche se poi le motivazioni non erano esattamente solo quelle, solo quelle economiche, ma anche puramente però di contratto. Finalmente diciamo questa pratica viene lasciata alle spalle e per un anno non se ne parla più e quindi si tornerà a giocare. Quindi i temi di discussione diventano altri, che sono essenzialmente la gestione dei talenti in squadra. 6, 44 minuti e 52 secondi dunque con il nostro Dario Ceccarelli per parlare di gestione dei talenti, perché i giornali e non solo ci riferiscono parecchie cose, a partire dall'intervista di Marcello Lippi su Francesco Totti. Ve ne parlavamo poco fa, gli dice parlate chiaro, si schiera dalla sua parte, dice Francesco è un esempio, chi lo descrive come un mangia allenatori non lo conosce, un uomo leale, l'importante è parlargli e spiegargli il proprio punto di vista, sempre fatto io, non mi ha mai creato problemi, ha accettato sempre senza polemiche ogni mia scelta. Così Marcello Lippi su Totti, che è il grande caso, insieme ancora una volta a quel maledetto Balotelli. Sì, la differenza è che Totti ha un grande passato alle spalle, di Balotelli il passato ancora non si vede, il futuro è ancora tutto da fare. Forse allora, ha un grande passato davanti, sono uno scarso. L'ultima passato. Novità è questa polemica così, che in realtà non ha grande sostanza, che sarebbe arrivato nell'ultima partita, prima dell'ultima partita con la nazionale, con l'iPad in panchino, diciamo che dal pullman è arrivato con l'iPad un po' distrattamente, no? Sono piccoli episodi. Se Balotelli fosse tutto a posto, giocasse bene, segnasse eccetera eccetera, chiaramente nessuno starebbe a discutere. È che questo è l'ultimo episodio di tanti altri episodi. Prandelli lo ha difeso fin dall'inizio, ricordiamo che dopo il disastro della nazionale, ahimè, di Lippi, Balotelli e Cassano furono le due grandi proposte per far ripartire l'Italia, e chiaramente Balotelli però non va, un po' perché in Inghilterra non ingrana, nel City non gioca pochissimo, Mancini stesso, che pure era un suo sostenitore, non lo fa giocare, in più perché questo suo carattere di super orgoglioso, che fa sempre il neghittoso, il riottoso, che è sempre con quella faccia imbronciata, e in più poi, diciamo la verità, non dà quella valore aggiunto tecnico e quindi non si ammazza in campo, diciamo. Quindi adesso nella partita con la Slovenia giocherà Cassano, ma che è l'altro grande talento su cui da anni si scommette un po' in vano, però diciamo la verità, perché nel Milan è sempre appeso a un filo e in nazionale Prandelli sta facendo un lavoro incredibile per mantenerlo in prima fila. E poi c'è il Pupone. Il Pupone, che però Pupone ha dato tanto alla nazionale e ha dato tanto alla Roma, 207 ricordiamo, ma sono cose. E qui si parla soprattutto appunto di l'ultima fase della sua carriera, soprattutto in un momento in cui la Roma ha cambiato completamente padrone, ha cambiato assetto, e quindi diciamo che Lippi cerca di pagare un suo vecchio debito con un giocatore che, ricordiamoci, quel rigore che fece passare l'Italia prima dei Berlino, dell'ultima fase di Berlino. Insomma, a Totti Lippi deve molto. Deve molto, probabilmente anche Totti a Lippi, esatto. Naturalmente. Grazie dunque al nostro Dario Ceccarelli, che lasciamo tra l'altro alla fattura del giornale radio. Grazie Dario e buona giornata. Siamo quasi in chiusura. Ci ha raggiunto qua in studio invece Alessandro Milan alle 7:20 circa, più o meno, La rassegna stampa, abbiamo già dato un quadro più o meno di quelle che sono le prime pagine dei quotidiani, anche internazionali. Alessandro, qualcosa di stuzzicante? Beh sì, qualcosa di stuzzicante, a parte la manovra in tutte le salse, la troviamo. Ti vorrei fare un quiz, caro Simone. Vorrei sapere se sai rispondere a questa domanda: dove ha sede il Presidente della Repubblica? Ti do anche quattro possibilità. Al Quirinale, a Palazzo Madama, alla alla Farnesina o a Montecitorio? Prima, Quirinale. Comunque, È una delle domande a cui devono rispondere gli aspiranti ragionieri del Quirinale. Che voglio dire, se ti presenti al concorso, vuoi entrare al Quirinale e non lo sai. Comunque, sono il bestiario, viene titolato quiz da ridere per i fantozzi del Quirinale, questo è sul giornale. Comunque no, in realtà l'abbiamo presa, diciamo, dalla fine, in realtà sì. Ci sono notizie ben più importanti sulla manovra, ovviamente, in primo piano. Sì, per esempio commenti di oggi che hai trovato in giro. Beh, i commenti di oggi interessanti sono il Corriere della Sera, mi ha molto colpito, c'è un articolo editoriale molto duro di Piero Stellino nei confronti del governo. Non è la prima volta che in questi giorni il Corriere è molto duro, e c'è anche un commento del direttore Ferruccio De Bortoli che fa sapere che domani il Corriere non uscirà in edicola, unico quotidiano, per lo sciopero della CGIL. E tra l'altro c'è un editoriale molto duro di De Bortoli dicendo: ho parlato con il segretario della CGIL Camusso chiedendo una deroga, come sempre è stato per le maestranze del Corriere della Sera in passato, non ho ottenuto risposta e quindi per la prima volta il Corriere non uscirà in edicola, questo per lo sciopero della CGIL. E c'è un attacco anche abbastanza frontale da parte di De Bortoli al segretario, appunto, nazionale Camusso. Questo è il quadro del Corriere della Sera. Dal lato della vicenda Tarantini immagino ci sia anche là parecchia roba. C'è molto, ci sono ovviamente le intercettazioni, noi ne parleremo anche in 24 mattino, e c'è la nuova ipotesi per il Presidente del Consiglio per questi pagamenti fatti a Tarantini, secondo l'accusa, perché doveva comprare nel silenzio, mentre Berlusconi dice ho solo aiutato una famiglia in difficoltà, perché c'è l'ipotesi di riciclaggio, perché i pagamenti in contanti ovviamente violerebbero, secondo la Procura, la norma antiriciclaggio. Ampiamente sopra la cosiddetta soglia di tracciabilità. Abbastanza. Sì, sì. Si parla di centinaia di migliaia di euro. Abbiamo ancora un minutino, Alessandro, qualcos'altro? Guarda, voglio sottolineare una storia che proviene dalla Scozia e che tutti i giornali descrivono. Il Corriere e la Stampa vi dedicano un'intera pagina. Tolti ai genitori due figli obesi, anzi no, sono quattro figli, perché non ce la fanno, secondo i servizi sociali scozzesi, non ce la fanno a mantenere un regime alimentare corretto per i loro figli. Arrivati a questa decisione shock, li hanno tolti e rischiano di essere proprio dati in adozione a un'altra famiglia, perché questa famiglia non ce la fa. Ovviamente questa famiglia dice: noi ce la mettiamo tutta, se ci trattano come dei criminali, vogliamo bene i nostri figli, hanno un problema evidentemente come noi genitori. Però insomma è una decisione che fa molto discutere. Grazie dunque ad Alessandro Milan, ritroveremo dettagli di tutto questo e molto altro naturalmente alle 7:20 nella rassegna stampa. Questo nuovo programma di informazione di Radio 24 è tutto, un ringraziamento a Peter Bescapè in regia, da Simone Spezzi una buona giornata, ci risentiamo tra poco, subito dopo il Gazzettino del Risorgimento con il giornale radio.